Storiacce di Raffaella Calandra. Gli americani sono sbarcati in Sicilia con l'aiuto della mafia? Falso. C'è stato un tempo in cui i boss erano galantuomini e rispettavano donne e bambini? Falsissimo. Ci sono miti che si alimentano nel tempo e diventano verità per tutti, anche se nulla lo dimostra, e anzi, anche se gli storici provano il contrario. Ma a volte, appunto, la leggenda è più forte della verità e in fondo, riprendendo un vecchio adagio delle redazioni, perché farsi rovinare una bella storia dalla verità? Allora da qui, da questi interrogativi partiamo in questa puntata di Storiacce tra falsi miti e sconosciute realtà, tra cronaca e fiction intorno alla mafia. Era incominciato nel gennaio 1943, una storia che riguardava l'America e la Sicilia. Saremo gli americani, andiamo! Che bisogno c'è di mettere mano alle armi quando siete in mezzo alla miscia? Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano, è fatta. Dove abita? In Sicilia. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la Seconda Guerra Mondiale in corso. Va in guerra per amore, Pierfrancesco Di Liberto, in arte Pif, nel suo ultimo film. Va nella Sicilia, dove stanno per sbarcare gli alleati, a conclusione della Seconda Guerra Mondiale, e la storia di Arturo Giammarresi, proprio come il cognome della famiglia protagonista di tutta la saga curata dalla ex Iena diventata lo sbeffeggiatore dei boss, incrocia quella dei rapporti tra le forze statunitensi e i boss siciliani. Una bella fiaba, quella di Pif, che ripropone il tema di uno dei miti più archetipici della mafia, uno dei miti iniziali, cioè. Ma davvero Cosa Nostra permise e favorì l'ingresso degli alleati nella nostra isola più meridionale? Falsissimo, chiude perentorio John Dickey, professore all'Università di Londra e da anni studioso come storico di malavita organizzata italiana. Falso, falsissimo. Forse il più grande dei miti della storia della mafia. Un elemento di verità c'è. La mafia sì si è proposta negli Stati Uniti per aiutare a proteggere il porto di New York da infiltrazioni nemiche. Non sappiamo se veramente questa minaccia esisteva o se invece è una montatura della mafia per ovviamente fare protezione essenzialmente. È a questo elemento che dobbiamo le origini del mito, perché dopo la guerra le persone che hanno agito da intermediari tra le autorità americane e la mafia per la protezione del porto di New York hanno detto: ma no, noi lavoravamo per conto della marina militare perché Lucky Luciano aiutava le forze alleate al momento dello sbarco. Quindi è una montatura della mafia per proteggersi da accuse legittime. Ok, questa è l'origine del mito. È vero, c'è anche che dopo lo sbarco la mafia infiltra l'amministrazione alleata a diversi livelli, cioè dai sindaci mafiosi e soprattutto l'infiltrazione del sistema degli ammassi del grano. Il razionamento c'era anche prima dello sbarco, eravamo in tempi di guerra, quindi la mafia si era già posizionata per infiltrare la nuova amministrazione alleata. Insomma, è questo quello che può considerarsi storicamente provato. Nessun complotto, mafia e truppe americane, come pur si tramanda, facendo forse iniziare da lì il potere anche più politico di Cosa Nostra e anche un suo certo ruolo positivo nella storia italiana. Ma tutto questo non esiste, specifica a chiare lettere Salvatore Lupo, storico e professore palermitano. Si tratta di uno dei più classici luoghi di verità romanzata. Naturalmente è vero che quando gli americani arrivarono in Sicilia, come tutti gli altri purtroppo governanti della Sicilia, nei brevi mesi ebbero contatto con figure, gruppi mafiosi, ma non è affatto vero quello che si dice, che ci fosse un complotto per favorire lo sbarco. È una ramificata leggenda che, per il fatto che venga ripetuta in continuazione, non cessa di essere una leggenda. questa cosa l'ho dimostrata, ma non serve a niente perché la leggenda è troppo attraente. La suggestione prevale sulla realtà. Perché è una bella leggenda, no? Poi per chi è di sinistra, gli americani cattivi. Non c'è stato il complotto, non c'è stato l'accordo a tavolino, diceva però che dei contatti in qualche modo ci sono stati, ma in che modo possono essere definiti? Noi sappiamo per certo che quando poi gli americani sbarcarono, questi ufficiali del Civil Affairs, del governo militare della Sicilia, dovevano nominare dei sindaci, presero quelli che prima capitavano, autodefinitisi antifascisti, invece molti erano degli elementi vicini alla mafia. Naturalmente la ripresa di relazioni tra la mafia e l'America passa attraverso le organizzazioni mafiose siculo-americane e siciliane, no? E non c'è nessun complotto, c'è il fatto che queste due organizzazioni hanno sempre dialogato e sempre hanno partecipato ognuna alle fortune dell'altra. A dispetto del suo tono scansonato, il lavoro di Piff, anche e ancor di più nella serie La mafia uccide solo d'estate, poggia in realtà su documentazione assai puntuale, come per primo Piero Grasso, ex giudice all'atere del maxi processo di Palermo e ora presidente del Senato, gli ha riconosciuto ritornando al cinema dopo decenni. Ed è allora che così lui, Piff, risponde anche alle obiezioni degli storici. Ma in realtà io non dico che gli americani e la mafia hanno aiutato per lo sbarco. Gli storici discutono, io ho soltanto appoggiato una tesi storica che mi sembra decisamente più credibile, che una volta sbarcati gli alleati, e io mi focalizzo sugli americani, chiedono aiuto alla mafia, usano come la mafia come alleato per andare fino a Berlino e poi per combattere il comunismo. Non sono uno storico, ho letto dei libri e mi sembra che questa tesi storica mi sembra più credibile rispetto a quelli che dicono che gli americani non abbiano chiesto aiuto alla mafia. Non sarò io a unire gli storici, io faccio il regista e fra le due tesi penso che questa qua sia la più credibile, la più logica. Questo appunto è un elemento che ha sempre negli anni dato forza alla mafia, quella di considerarla compartecipe in qualche modo dell'arrivo, dell'ingresso degli americani in Italia e di quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sì, e poi con la guerra fredda, ma qui è veramente negare questo è come negare che ci stiamo parlando, gli americani, l'Occidente, se vuoi, ruola ex nazisti, tutto ciò che era contro il comunismo andava bene, per paura del comunismo si sono fatte delle porcate pazzesche. In Italia, in Sicilia in particolare, c'era al sud c'era la mafia, mi faccio sempre ammesso, io sono felice che ci abbiano liberato gli americani, sono anche grato, bisogna anche dire che nella visione globale degli americani la Sicilia è nulla, la mafia ha il ruolo di sentinella contro il comunismo, non è un caso che crolla tutto quando cade il muro di Berlino. Ormai le cose sono andate così, io dico sempre, quindi non ci rimane che almeno riderci sopra. Falsi miti e mezze verità, come mai certe versioni resistono nel tempo nonostante le smentite e anzi si rafforzano? Precisioni anglosassone e conoscenza delle gesta italiche sono nella riflessione di John Dickey. Come mai questo mito non muore mai quando non c'è un solo storico serio che ci crede? Come mai gli storici, è l'ultima storica ad occuparsi di questo argomento, Emanuela Patti, dell'Università di Palermo, che ha scritto un piccolo libro sulla Sicilia e le alleati. Allora, qual è il gioco del mito della mafia che aiuta gli alleati al momento dello sbarco? Innanzitutto un mito che ha origini fasciste anche. La propaganda fascista voleva la mafia sconfitta alla fine degli anni 20 dall'operazione Mori. I fascisti sapevano benissimo, e noi adesso abbiamo a disposizione le carte d'archivio, che anche durante gli anni 30 la mafia era già tornata, era fortissima, e soltanto che i quotidiani fascisti non ne parlavano. ma nella diffusione del mito che i boss di Cosa Nostra aiutarono gli americani nello sbarco in Sicilia c'entra anche la politica e soprattutto una certa politica di sinistra. Ma questo non è affatto l'unico mito che negli anni ha ammantato di una certa aura la mafia, grazie anche all'aiuto di una puntuale propaganda interna. E da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Philip è un tenente dell'esercito americano che ha origini italiane e che viene mandato a liberare la Sicilia. Convinto che comunque le intenzioni sono buone, sono positive, ma poi si rende conto ben presto che l'esercito americano ha comunque fatto un compromesso con la mafia per invadere l'isola. Gli americani che stringono patti con i boss siciliani al momento dello sbarco. È forse questo il primo e più forte mito che avvolge la letteratura mafiosa. Perché se è vero, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, che dei contatti effettivamente ci sono stati, nessun complotto e nessun accordo o compromesso, come invece si continua a raccontare, è mai stato siglato. Ma la verità spesso si sa, e anche in questo caso fa fatica ad imporsi sulla potenza di una leggenda, alimentata negli anni anche da parte di una certa sinistra, notano gli storici, che coglieva l'occasione per puntare il dito contro gli americani, loro, gli americani, quelli che fanno i patti con la mafia. Ma se questo è il primo e più forte mito, dicevamo, intorno al racconto dei boss siciliani, altre false verità continuano ancora ad oggi ad essere propagandate, le elenca lo storico inglese John Dickey. Questo è un mito che torna a galla in ogni periodo storico e le persone che la fanno avanti sono innanzitutto gli avvocati dei mafiosi, no? Hanno certo interesse a dire che la mafia è una cosa buona, che quelli violenti sono gli altri rispetto ai clienti di turno. Classico tema della narrazione del male, degli eroi negativi, in qualche modo contribuisce anche a questo, ad aver alimentato il mito che la mafia di un tempo era una mafia, ad esempio, che rispettava donne e bambini, quando sappiamo perfettamente che tutto questo non è mai avvenuto. È esattamente così. I due miti sono collegati nella figura di Giuseppe Guido, lo schiavo, magistrato molto importante degli anni 40 e 50, che scrive romanzi sulla mafia. Qual è il primo film italiano sulla mafia? Nome della legge di Pietro Germi, ed è un film, come dicevo, basato sul romanzo di un magistrato su cui pesano, bisogna dire, dei sospetti abbastanza pesanti, Giuseppe Guido lo schiavo, e che in ogni caso era il grande esperto mediatico di mafia degli anni 50 in Italia. E lo schiavo molto spesso dice che appunto la mafia era buona una volta e che invece sono i gangster americani ad aver portato valori aggressivi, violenti. Essenzialmente è un tentativo di coprire le tracce dei legami politici tra mafia e DC nel dopoguerra. Quali possono essere altri falsi storici che sono sopravvissuti nel tempo? L'idea del terzo livello, contro il quale Falcone polemizzava, la mafia che spara non può essere la vera mafia, perché la vera mafia è sempre più alta, sempre altrove, sempre nei palazzi del potere. Esatto. È una specie di versione antipolitica, populista se si direbbe oggi. E anche questo è un mito molto potente con il quale anche Falcone ha dovuto venire alle prese. Durante il maxi processo si dice ma lui non processa quelli veri. Esatto, processa soltanto pecorai, l'ultima leva, diciamo. Tiene le carte nascoste nel cassetto. E niente di tutto ciò è vero. Ha processato la mafia, infatti ha processato persone, mafiosi di altissimo livello come i cugini Salvo. Poi è un mito anche questo che serve gli interessi della mafia, se i mafiosi possono puntare il dito altrove e dire noi siamo soltanto i burattini, il vero potere sta altrove, Riina ha ripetuto versioni di questo stesso mito. Ma all'origine di tutto e anche delle mistificazioni intorno ai boss resta sempre e comunque imprescindibile il padrino, e a partire da lì la mafia diventa luogo anche di virtù arcaiche nella definizione dello storico palermitano Salvatore Lupo. Ma è una narrazione apologetica della mafia come luogo di virtù arcaiche, che molto è da parte americana identificata nel luogo arcaico che è il Mediterraneo, cioè la Sicilia. Virtù che sarebbero onore, coraggio e casomai anche ferocia. Anche questa è una rappresentazione apologetica, tant'è che molto spesso i mafiosi stessi se ne sono valsi, no? Non si conta il numero dei mafiosi che quando sono stati catturati avevano sul comodino la cassetta del padrino. E d'altronde anche nei Sopranos il padrino diventa il luogo a cui questi si ispirano. È un gioco di specchi tra la rappresentazione e la realtà, però è una rappresentazione apologetica che nobilita, sulla base di una grande base anche drammaturgica, questi fenomeni che invece di per sé stessi sono piuttosto triviali. Ecco, e in questo gioco di specchi, in questo palcoscenico che in qualche modo amplifica anche le vicende mafiose, in qualche modo secondo lei c'è anche una consapevolezza nel peso che potrebbe avere a loro beneficio una certa propaganda? Comincia, potremmo dire, con la pubblicazione sul Giornale di Sicilia del romanzo I Beati Paoli, quindi parliamo dell'inizio del Novecento, e i mafiosi attingono a queste storie motivazioni nobilitanti, quindi questo fa parte fortemente dell'immagine che il mafioso come grande protettore, come società segreta che protegge i poveri e i deboli vuole dare di se stesso. Fa parte integrante del problema, però gli artisti che giustamente fanno poi quello che la loro arte gli detta di fare devono questo saperlo. Quindi esserne consapevoli. Dà alla mafia, ai mafiosi, degli strumenti per interpretarsi. Il pubblico si gode una storia che può essere bella o brutta, evidentemente. Certo, le storie particolarmente apologetiche spesso sono brutte anche. D'altronde, nel Padrino, se guardiamo insieme il primo e il secondo film, emergono anche le contraddizioni di una certa idea di familismo. Quindi non vorrei che il pubblico interpretasse che io voglio porre dei limiti all'artista che vuole, che rappresenterà come crede. In realtà, in ogni tempo, la verità ha fatto fatica ad imporsi sulla mitologia e il favoloso surreale fin dall'era dell'Atene classica, come ci racconta, come sempre a questo punto, Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Due millenni e mezzo fa, ad Atene, il grande storico Tucidide si domandava: com'è possibile che la gente sia pronta ad accogliere come vera qualsiasi leggenda storica senza mai verificarla? E non solo leggende di popoli lontani, ma anche quelle che riguardano noi, la nostra storia. Tucidide si lamentava che a prevalere fosse quello che lui chiamava, con parola greca, il mythodes, il favoloso. Invece di andare a studiare i fatti e raccontarli con rigore, cosa che costa fatica, ci si limita a brillanti conferenze sull'argomento, pezzi di bravura da ascoltarsi all'istante, come diceva lui. Quanto ci assomiglia l'Atene di allora? L'epoca della post-verità ci riporta nel mondo del mythodes, del favoloso. Una volta c'erano i miti, c'erano i retori, i sofisti, oggi ci sono le bufale di internet o i tuttologi da talk show. Il confine tra storia e mito, tra fatto e romanzo, è tornato a essere incerto. Per documentarci sulla mafia consultiamo Roberto Saviano, magari Piff, per la Seconda Guerra Mondiale chiediamo ai giornalisti e magari al Giampaolo Pansa, e la storia dell'arte e persino quella del cristianesimo magari la discutiamo con Dan Brown. Basta che il racconto funzioni, i fatti non contano, anzi disturbano un po'. Tucidide oggi a un talk show non l'inviterebbero mai. Al massimo ospiterebbero quel grande affabulatore di Erodoto, l'altro grande storico nel V secolo a.C. Lui sì che era un brillante conferenziere, con le sue storie divertenti sulle stravaganze degli sciti o dei persiani, diventerebbe subito una star dei media. E secondo voi quali sono gli altri falsi miti che continuano ad essere raccontati? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Aspetto anche le vostre segnalazioni alla mail storiacce@radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.